Introduzione del visto anche per gli extracomunitari che intendono soggiornare in Italia per meno di 3 mesi, stretta sui ricongiungimenti familiari, allungamento a 6 mesi dei tempi di trattenimento nei centri di permanenza, allontanamento per chi non dimostra di trovarsi nel nostro paese da meno di 3 mesi. Queste le misure che entreranno nel decreto che il governo varerà la prossima settimana. Seguiranno invece la strada del disegno di legge l'introduzione del reato di immigrazione clandestina, le espulsioni più facili, il giro di vite alla Gozzini. Misure queste che ieri il ministro dell'Interno Maroni ha illustrato al presidente della Repubblica Napolitano. Sulla questione Rom, il responsabile del Viminale ha poi annunciato che saranno 3 i commissari straordinari con poteri di protezione civile. A Milano si aggiungeranno Roma e Napoli. Incontrando il ministro dell'Interno romeno, Maroni ha poi spiegato: non esiste un problema di comunità romena in Italia. Esiste un problema di sicurezza a cui il governo deve dare risposte immediate ed efficaci. Coinvolti nel piano sicurezza anche regioni e comuni, così Domenici, presidente dell'ANCI, dopo l'incontro con Maroni. La possibilità di emanare ordinanze che abbiano per oggetto non solo l'incolumità pubblica, ma anche la situazione generale della sicurezza urbana. Sempre dal governo infine altre ipotesi di lavoro. Il ministro degli esteri Frattini ipotizza una banca dati europea delle impronte digitali. Quello della difesa, la russa, parla di pattugliamenti misti, forze di polizia, esercito nelle città. Vincenzo Miglietta, GR24, Il Sole 24 Ore, Roma.